Ciao e benvenuti al secondo episodio di La Casa del Ciliegio. Oggi esploreremo le radici della mindfulness, una pratica che ci invita a essere pienamente presenti e consapevoli in ogni momento della nostra vita quotidiana. Ma da dove proviene questa pratica che ha guadagnato tanta popolarità negli ultimi anni? La mindfulness ha radici molto antiche, che affondano nella tradizione buddista. Ma ciò che rende la mindfulness così potente e accessibile oggi è la sua capacità di essere stata adattata dalla scienza e dalla medicina occidentale, come vedremo più tardi. La mindfulness non è solo una moda, è una pratica profonda che può essere applicata alla nostra vita per aiutarci a ridurre lo stress, l'ansia e migliorare il nostro benessere generale. La mindfulness, o sati in pali, è un concetto che nasce nell'antica tradizione buddista. La pratica del sati si basa sull'idea di essere consapevoli di ciò che sta accadendo nel momento presente, senza giudizio. Nel buddismo, il cammino verso l'illuminazione passa attraverso l'attenzione consapevole, che porta all'abbandono del dolore e della sofferenza. Una delle pratiche più conosciute del buddismo, che incorpora la mindfulness, è la meditazione vipassana, che significa vedere le cose come realmente sono. La vipassana aiuta a sviluppare una consapevolezza profonda di noi stessi, dei nostri pensieri, emozioni e sensazioni. Il Buddha insegnava che l'insoddisfazione e la sofferenza derivano dall'attaccamento e dall'ignoranza e la mindfulness è uno strumento per superare entrambi. Ora potrei chiederti, ma com'è arrivata la mindfulness nel mondo occidentale? Questo è grazie a un uomo, Jon Kabat-Zinn. Nel 1979 Kabat-Zinn fonda la Clinica per la riduzione dello stress all'Università del Massachusetts, dove sviluppa il protocollo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Kabat-Zinn era già un praticante di meditazione e aveva un forte interesse per come la mindfulness potesse essere applicata in un contesto clinico per aiutare le persone a gestire il dolore e lo stress. Jon Kabat-Zinn ha reso la mindfulness accessibile a chiunque, non solo agli esperti di meditazione, e ha dimostrato scientificamente i suoi effetti benefici. Ha portato questa pratica dalla tradizione spirituale alla medicina scientifica, utilizzandola per trattare condizioni come il dolore cronico, l'ansia e la depressione. La sua grande intuizione è stata quella di integrare la mindfulness con la medicina occidentale, creando un programma strutturato che potesse essere utilizzato in ospedali e cliniche e che oggi è diventato una delle pratiche più diffuse al mondo. Forse ti starai chiedendo come funziona il protocollo MBSR e come può aiutare nella gestione dello stress, dell'ansia e della sofferenza fisica. Il protocollo MBSR è un programma strutturato di 8 settimane, durante il quale si imparano tecniche di meditazione e consapevolezza per ridurre lo stress e migliorare il benessere. L'MBSR si basa su pratiche di mindfulness, con la meditazione sulla respirazione, il body scan e la meditazione camminata. L'obiettivo dell'MBSR e fornire agli individui gli strumenti per affrontare situazioni difficili e le sfide quotidiane con maggiore calma e consapevolezza. Le evidenze scientifiche mostrano che l'MBSR è efficace nel ridurre i sintomi di stress, ansia e depressione. Inoltre, può anche migliorare la qualità del sonno e ridurre la percezione del dolore fisico. Durante il programma, i partecipanti imparano a vedere le cose come sono, senza attaccamenti o giudizi, e e a rispondere invece di reagire automaticamente alle difficoltà della vita. Una delle cose più potenti della mindfulness è proprio questa: ci aiuta a diventare più consapevoli dei nostri schemi mentali e a sviluppare una maggiore resilienza di fronte alle sfide della vita. Come avete visto, la mindfulness è una pratica che ha radici profonde nella tradizione, ma che oggi può essere un potente strumento di cambiamento per la nostra vita quotidiana. Se volete saperne di più e fare esperienza di questa pratica, vi invito ad iscrivervi ai miei corsi di mindfulness. Offro percorsi per principianti e il protocollo MBSR, che è un percorso completo per ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale e fisico. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio di La Casa del Ciliegio e nella prossima puntata parleremo di cosa non è la mindfulness per sfatare alcuni miti comuni che a volte la circondano. A presto!